parliamo dell'obiezione di coscienza, della lotta antimilitarista, anche se negli anni 70 le istanze libertarie non erano solamente nel campo militare, però quella è stata sicuramente una lotta speciale perché ha focalizzato il problema dell'autoritarismo e delle forze armate, delle forze di polizia in quello che sono state le lotte, insomma. Io nel 70 ho fatto obiezioni di coscienza e sono stato un po' il padre, posso dire, uno dei padri, uno dei tanti padri dell'obiezione di coscienza in Italia, in quanto sono stato il primo a fare obiezioni di coscienza pubblica e non personale, cioè l'obiezione di coscienza fino a quell'anno lì era un atto individuale di persone che non si presentarono o che si rifiutavano di vestire la divisa, ma lo facevano individualmente, atti straordinari, ma nessuno ne sapeva nulla, insomma. Io ne feci una questione politica insieme ad altri e la portai in giro per l'Italia utilizzando un movimento che già esisteva, un movimento culturale che già esisteva, antimilitarista. Ecco, ricordiamo che non c'era la legge sull'obiezione di coscienza e questo ti è costato anche il carcere. Sì, ovviamente sono stato in carcere come tutti gli obiettori di coscienza fino a quel momento, però l'azione che feci io insieme ai miei compagni, perché in verità partimmo in tre da questo discorso, mentre lavoravamo in Sicilia per evitare la naia ai giovani siciliani dopo il terremoto del Belice, l'azione che feci io aggregò tutta una serie di obiettori di coscienza, per cui da singoli individui diventammo prima decine e poi centinaia, tant'è vero che a quel punto il governo fu costretto a emanare la legge sul servizio civile perché non era in grado di gestire tante persone in carcere. In carcere nello stesso periodo cominciarono ad arrivare i proletari in divisa. Ricordo con tristezza il caro amico Gabriele Zunchi qui di Bologna, conosciuto come Occhi Dolci, anche che conobbi in carcere, malgrado fossimo tutti e due di Bologna, a Peschiera. Lui arrivava come proletario in divisa, che era un nuovo movimento antimilitarista, però portato all'interno delle caserme invece che all'esterno, come era invece l'azione che facevamo noi obiettori di coscienza. Quindi c'era una lotta antimilitarista che è stata, secondo me, la lotta che ha fatto capire che la gerarchia e il militarismo sono irriformabili. Non esiste possibilità di democrazia all'interno dell'apparato militare, perché l'apparato militare è la negazione della democrazia e della giustizia, perché ove esiste una gerarchia dominante non esiste possibilità di giustizia, non esistono poteri buoni, tant'è vero che la cosiddetta democrazia, sapendo che non esistono poteri buoni, nasce con la logica di creiamo almeno poteri contrapposti, che è creiamo una magistratura che è contrapposta al governo, creiamo la stampa che è contrapposta al potere, eccetera eccetera. Quindi non potendo avere poteri buoni abbiamo almeno poteri bilanciati, ma ovviamente tutto il sistema nasce per far collassare questo principio del bilanciamento dei poteri, a cominciare dai governi di unità nazionale e cose di questo genere. Al mondo una parvenza di democrazia può esserci solo dove esiste un'opposizione. Fino a che esiste un governo e un'opposizione forte, un'opposizione che lavora pesantemente contro il governo si comporterà abbastanza bene perché è sotto il giudizio dell'opposizione. Dove l'opposizione muore, muore la democrazia. Questo naturalmente vale chiaramente all'interno delle singole istituzioni. In un'istituzione gerarchica come l'esercito, dove non esiste opposizione, è ovviamente di per sé istituzione fascista. E così la polizia. Non esiste una polizia buona. La polizia è fascista per definizione, perché esiste qualcuno che comanda e qualcuno che ubbidisce. Questo poi genera tutto quello che sono i comportamenti individuali schifosi, che in teoria non sono previsti dalla logica della polizia ufficiale, ma nella pratica lo sono. Quindi non è possibile una polizia democratica, tanto più in America, dove ha un potere enorme. Nel corso della storia recente, però, ci sono stati dei tentativi per almeno correggere correggere o limitare la violenza, e faccio riferimento soprattutto dopo la famosa macelleria messicana a Genova del 2001 alle battaglie per il codice alfanumerico sulle divise delle forze dell'ordine, in modo da poter identificare dopo che avevano compiuto abusi. Certo, questa è stata una battaglia importante che la società civile ha perso, perché questi codici non li abbiamo sulle divise, non riusciamo a identificare i responsabili di Genova, non sono finiti in carcere, sono ancora lì che vivono tranquillamente all'interno della polizia se non sono andati in pensione e così via, perché tutto il sistema poliziesco è un sistema che li ha protetti, al di là delle evidenze, al di là delle parole dei singoli funzionari che hanno detto ah sì, è stato un atto assurdo, li condanneremo. Non esiste una democratizzazione della polizia, se ne parla, si racconta che, ma poi succedono singoli fatti, cioè il singolo poliziotto dopo anni e anni e anni di battaglie è stato condannato per il caso Cucchi o per il caso Aldorandi, ma il singolo, e poi nella pratica sono quasi tutti fuori dalla galera, insomma. Chi si oppone a quest'idea violenta, autoritaria, dove è bene che concentri le proprie energie, in che battaglia? Il problema è che la polizia è specchio della società, il militarismo è specchio della società, quindi più la società è democratica, più c'è possibilità di controllare, non dico di rendere democratici le forze armate e i sistemi di polizia, ma renderli più accettabili, e quindi tutto secondo me da concentrare sulla democratizzazione, e quindi su questo discorso che facevamo prima sul bilanciamento dei poteri, perché la polizia sia sottoposta rigorosamente a un controllo della magistratura, bisogna rendere la magistratura più forte e più indipendente dal governo, perché il governo sia funzionante bisogna spingere perché esiste un'opposizione sempre, e perché la stampa pubblichi informazioni vere e non reveline del governo e della polizia.